piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse. Sì. E dall'alto dei suoi follower, dei 30 anni che compie oggi e dei suoi tacchi, Chiara Ferragni ha detto sì. Mai fiaba d'amore fu più social di quella tra Fedez e Chiara Ferragni. Il racconto ha raggiunto ieri sera all'Arena di Verona il suo climax. Servono anelli che ci tengono assieme, perché di anelli sono fatte le catene. Il rapper ha invitato sul palco la fashion blogger e, dopo averle dedicato una canzone, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. Sullo sfondo le immagini della loro storia da milioni di like e la complicità del pubblico armato di cuoricini di cartone. Certo, se i futuri sposi dovessero invitare alla cerimonia tutti i propri follower, solo su Instagram lei ne ha 9 milioni e lui 3,5, servirebbe un posto un po' più grande dell'Arena di Verona. Chissà perché a nessuno viene in mente di proporre Chiara Ferragni in politica. 9 milioni di followers, ma anche Fedez potrebbe andare bene. Non ho nessun pregiudizio verso questi ragazzi, anzi osservo con attenzione questi fenomeni, essendo da sempre appassionato di mutazioni della società attraverso i media. Però c'è un passaggio particolare della loro epopea social che mi interessa approfondire questa mattina alla luce delle esperienze di chi ci ascolta. Ora, Fedez l'altro ieri ha postato su Instagram l'ecografia del bambino che sta in gestazione a Chiara Ferragni. Aspettano un bambino. Niente di assolutamente particolare, non è il primo a farlo, è un fenomeno abbastanza conosciuto. Ormai le ecografie sono delle vere e proprie fotografie, addirittura ci sono dei video, si mettono in rete, si condividono. Io stesso mi ricordo quando ebbi la prima ecografia video di mio figlio 22 anni fa, era il 95, mandai l'audio per radio, non esistevano ancora i social e internet, ancora qualcosa per pochissimi, feci ascoltare alla radio il battito del cuoricino di Filippo, che ancora era un embrione, e riflettei sul fatto che nasceva la radio prima ancora di nascere la vita. Oggi, a distanza di 22 anni, vorrei riflettere sul fatto che l'embrione del figlio, che si chiamerà Leone, mi pare, di Chiara Ferragni e Fedez, è già condiviso, già esiste, già una sua personalità. Ben 533.000 persone hanno mandato il loro cuoricino soltanto a distanza di qualche ora dalla pubblicazione, migliaia di commenti e nasce un caso. Beh, io voglio cominciare a ragionare, visto che stiamo parlando di mutazione della società, e quando noi cominciamo ad esistere socialmente? E quando veniamo presentati ai parenti, agli amici, quando ci fanno la prima foto e teniamo la prima foto ancora in fascia appena nati, ho appena raccolto una testimonianza disgraziata di una collega che appena nacque il padre aveva fatto confezionare con una lana fatta apposta per neonati una magliettina dell'Inter per infilare alla figlia. Appena nata era suggellata come tifosa dell'Inter. Da un padre non sarà posto il problema della possibilità di autodeterminarsi di quella bambina, già nata con strisce nero-azzurre. Beh, mi viene da pensare che se questo trend si concretizzasse e, come immagino, diventasse sempre di più una maniera per conoscere la prima volta le persone, noi saremmo prima social che esseri sociali. Qual è il momento fatidico in cui noi possiamo dire ma finalmente da quel momento esisto per il mondo? Beh, io vorrei chiederlo questa mattina a voi: qual è la prima foto, la prima testimonianza della vostra esistenza? Di un altro figlio ricordo che la prima testimonianza dell'esistenza era il test di gravidanza col pallino blu, che vuol dire che la madre era incinta, quella era la prima prova della sua esistenza. Beh, voi avete una prova certificata della vostra esistenza? Qual è la prima prova? La prima foto? Il primo documento? Il primo ricordo condiviso con altri? Beh, deve essere qualcosa che oggettivamente gli altri vedono. Quindi è molto facile che la generazione del soffritto che mi ascolta addebita la prima testimonianza della loro esistenza a una foto. Beh, raccontatemi questa vostra prima foto. Com'era? Raccontatemi il contesto. Raccontatemi esattamente quando avete avuto la certificazione che voi eravate degli animali sociali. 800 24 0024. scopriremo insieme com'era Stepney da piccolo. Sono tipo foto di famiglia, quindi può darsi che verranno immortalate in queste foto anche, non so, mia sorella, mio babbo, mia mamma, i miei parenti. Comunque la mia, te ne cerco subito una. Questa è la mia comunione. Eccola! Ero carino. Mi ricordo tipo queste bomboniere con mia mamma, siamo state tipo 10 volte al negozio per decidere quali prendere, con il confetto dentro, cosa metterci dentro il confetto. C'avevo la frangetta aperta, tipo un semichierico. Qui non mi ricordo per che occasione era, ma siamo io, mia sorella e un gatto. A caso. Guarda come c'avevo già la panza, la buzzetta alcolica che usciva. Saluta Antonio. Mia sorella sarà contentissima che io abbia messo in circolo questa foto. Guardate le condizioni di entrambi, sono abbastanza lucide. Morirò. Vabbè, questa è con tutta la famiglia, no? Qui c'è ancora io, mia sorella e devo il gatto. Devo dire che il luogo in cui poi riemergono, risorgono i ricordi cartacei, le vecchie fotografie, è la rete, in quanto i giovani youtuber si divertono a mostrare le foto di quando erano piccoli, ma sono ragazzi in un'età media dai 15 ai 20 anni. Vorrei ritornare un po' indietro e parlare quando le prime foto erano importanti. Chi faceva la prima foto? Ma difficilmente si scattava una foto appena nati, come può essere oggi. C'era un fotografo di solito incaricato, e parlo della mia generazione, che poi faceva delle foto decenti quando poi la puerpera tornava a casa, era un po' racconciato anche il bambino, ben vestito, pulito. Io, se volete vi racconto la mia prima foto, ce l'ho la mia prima foto, la ricordo benissimo, l'ho acquisita, è stata una foto emblematica, su cui rifletto molto. Era una foto che era all'origine orizzontale, poi è stata ritagliata e diventata verticale, e mi sono accorto che qualcuno ha anche cambiato la data della foto. C'è scritto anno 1953, ma io sono nato nel 54. E mi sono arrovellato molto sul perché di questa data cambiata su questa prima foto. Io ero nient'altro che una sorta di piccola mummia, un fagotto, sembrava una mumma india, in braccio a una mia zia giovane che aveva soltanto 12 anni più di me, quindi mi sembrava già una donna grande, ma era l'anno 1954, in realtà era una ragazzina e mi teneva in braccio. Mi hanno messo in braccio la più giovane delle zie per farmi una foto e hanno cambiato la data dietro la mia foto, anticipandola di un anno. Poi me lo sono chiesto e incrociando racconti e mezze frasi ho capito che evidentemente io non ero nato esattamente 9 mesi dopo che i miei genitori saranno sposati, quindi per il decoro e per il buon nome probabilmente dei miei genitori avevano anticipato la data, io quindi in quella foto ero nato un anno prima. Però vedete quanto da una foto viene raccontato l'esistenza di una persona e quanto da un embrione può essere raccontato, perché in realtà il figlio di Fedez e la Ferragna adesso è un embrione, anche Bruttarello, sì, fa tenerezza perché pensiamo di diventare un bambino, ma è quella cosa lì che ancora si sta formando. Quindi noi legheremo i nostri primi ricordi a noi ancora nella fase fetale, embrionale, quando ancora siamo una cosa a metà fra un pesce e non so quale altro animale preistorico, e quello sarà il nostro ricordo, il nostro primo ricordo. O abbiamo ancora delle foto che in qualche maniera, analizzando il contesto, ci danno un'idea di quello che eravamo, qual è la nostra storia, cos'era la nostra famiglia. 800240024. Roberto, buongiorno. Oh, salve, buongiorno. Bella, bella questa delle foto da piccoli. Lei se la ricorda la sua prima? Il primo flash che ho avuto, guarda, è una cosa meravigliosa e ogni tanto mi viene in mente. Da bambino si aveva l'abitudine con i genitori e con la nonna di andare su in montagna qua nel Veneto, Asiago per la precisione. C'era sta fontana. Innanzitutto, scusi Roberto, mi dica di che anno stiamo parlando, perché è importante per il rilevamento capire anche l'epoca storica in cui si verifica questo fatto. Adesso io ho 60 anni, si parlerà del 60. 62, 60, 61, 62. 62. Sì. Sì, saremo su quell'età, avrò avuto 3-4 anni, 57, 3-60. Sì, saremo 61, 62 come anni. E quella è la prima foto che lei ricorda, lei con un cane San Bernardo. E appunto le dicevo, c'era questa abitudine di farsi la foto sulla fontana del paese abbracciati a sto San Bernardo con le cuginette, con mio fratello, con tutta quanta la parentela. Ed è una cosa che non ha una foto antecedente, no, questa è la prima che si ricorda. Miseria, magari ne avessi di antecedenti a questi. No, va bene, però stabiliamo che per lei l'entrata in società, cioè lei come essere sociale, è la foto di fronte alla fontana del paese col cane San Bernardo e con gli amichetti, i cuginetti. Veramente. niente, forse quella è la foto che mi fa proprio entrare nella società, entrare nel mondo, insomma, dove siamo adesso. Si ricorda com'era vestito? Pantaloncini corti, classici, pantaloncini corti, calzettoni lunghi e la scarpetta, quella classica di quei tempi. E qual era? Era tipo scarponcino. Sì. E poi sei in montagna. Vai, perché erano scarponcini ortopedici, a quegli anni si mettevano gli scarponcini ortopedici. Ma almeno a me l'hanno messo. Che siano stati quelli. Sì, erano delle scarpettine blu con dentro il plantare, perché andava molto di moda. Oggi, sì, figuriamoci, sì, infatti, nemmeno morti infatti. Uno metterebbe quelle scarpettine, nemmeno a un anno. Grazie Roberto. Roberto ha cominciato, l'avete capito? 800, grazie a lei Roberto, ha rotto il ghiaccio. Avrete migliaia di ricordi legati alla vostra prima foto. È importante, perché vorrei definire nelle epoche cos'è che ha sancito pubblicamente l'immagine, l'iconografia della nostra entrata alla società a seconda delle epoche. Oggi andiamo verso una deriva per cui sarà il nostro feto, sempre avanti. Poi prima cominceremo con l'embrione, poi cominceremo con l'ovulo appena fecondato, poi non si sa, forse ci vedremo ancora nello stato primordiale, quando ancora, diciamo, siamo a metà nei genitali dei nostri genitori. Roberto d'Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Lei se la ricorda? Io ricordo questo, io ho 61 anni, foto di me piccolo, mio babbo ce l'ha sempre fatta, però la foto che mi ha dato d'ingresso in società è una bellissima foto fatta, penso, sul periodo di Natale a casa dei miei a Cortona. È una foto, è a colori, ma a colori molto sbiaditi, con le gote ritoccate di rosa, che ci sono io, mio fratello più piccolo, che aveva pochi mesi, dei cugini del mio babbo, e in questa sala abbastanza spoglia, vicino a un alberino di Natale con quattro palline. Un triste Natale comunque, tristissimo. Sì, no, triste no, era così, però era bello. Che anno era? Che anno era, Roberto? È il 61. È sempre il 61. Sì, mio fratello era appena nato nel 61, dunque molto, molto bella. È la foto di ingresso in società, con degli zii favolosi. Quindi ancora una volta, noi stiamo identificando una sorta di elemento temporale legato a chi ci ascolta. Le prime foto del campione medio, del pubblico di questa fascia oraria, di questa radio, perlomeno dai primi risultati, sono delle persone che ricordano che la loro entrata in società è stata nei primissimi anni della loro vita, all'incirca i primi anni degli anni 60, erano sempre delle foto con piccoli parenti, delle foto posate, delle foto in luoghi simbolici, la fontana finora della casa delle vacanze e l'alberello triste di Natale come era negli anni 60, pavimenti di graniglia, spogli, un alberello, perché mica è come oggi che c'erano i cinesi che uno va lì e compra con la carriola le palline di Natale, se ne compravano con parzimonia, una o due nuove all'anno, poi erano di vetro e si rompevano. 800240024, qual è la vostra prima foto che sancisce la vostra entrata in società? Questo è il mio primo giorno al mare. Io sto cercando di capire lo strumento che sto utilizzando, che probabilmente nella mia testa è un congegno nucleare che potrebbe radere al suolo l'intero pianeta, e non ho i capelli. Dovrei cercarli col telescopio, ma non ci sono proprio i pezzi senza. Che cosa è successo nella mia infanzia incredibile? In più indosso tipo 8 mutande. Non so il perché, forse mia madre aveva paura che mi si togliesse il costume. Chissà che cosa usciva fuori, però probabilmente... Vorrei far notare a chi ci ascolta che il mio non è un peregrino esercizio di nostalgia. No, è una operazione molto usuale nei social media, soprattutto da parte delle più giovani generazioni, di certificare, commentare, dare un contesto a quelle che sono le prime testimonianze della loro vita. Perché? Perché esistono due piani di storicizzazione, un piano reale, concreto e ancora condivisibile, che ancora ha un suo valore storico e documentale, che è quello tradizionale, quello delle foto, e un piano che ormai è così vorticoso e così sovrascrivibile che si rendono conto anche loro di quanto sia transeunte, che sono le foto che a migliaia mettono ogni giorno nei social. C'è Bianca in ascolto, aspetta. Bianca, attenda solo un istante, e diamo la linea a chi di dovere, fra un istante sentiamo qual è la sua prima foto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta M24. Melog. A parte qua mi stavo chiaramente annaffiando i piedi. È per quello che sono così alto, ragazzi. Boccerai Mike per una cosa, cioè lo slippino. Ho capito, ma c'avevo due o tre anni qua. Lo slippino. Però sai che se lo metto ancora, sì, non è vero, non è vero. Ma tra l'altro che pacco c'avevo già da ragazzino. No, no. La sabbia nelle mutande. Sì, la sabbia. C'è sta un castello. Castello dei cannoni. Quanto si divertono questi giovani nativi digitali riguardando le vecchie testimonianze delle loro esistenze analogiche, poi saranno quelle che maggiormente daranno a loro il senso di essere vivi. In questi minuti di pausa mi sono fatto dare dalle due persone che mi accompagnano ogni giorno in questa diretta, il professor Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, le loro prime foto. Le avevano entrambe memorizzate nel loro smartphone. Vi descrivo quella di Alessandro Chiappini. Alessandro Chiappini viveva in una zona periferica dell'Interland romano, in area Castelli Romani. È una foto classica, esemplificativa, è un genere di foto. Erano le foto che si mandavano ai parenti emigrati, in questo caso in Paraguay, i parenti di Chiappini, per dimostrare che era nato il figlio maschio. L'orgoglio virile di Chiappini era ben evidente tra le sue coscine paffute, steso sul letto matrimoniale, su una consunta coperta in velcro sintetico, immagino riguardo gli anni. Era lì, poverino, spaurito, con il pisello al vento, per la foto avrebbero mandato gli zii in Paraguay. In Tonti invece è una foto su un seggiolone, è una foto molto buia perché è scattata nella prima casa di Intonti, che era in un quartiere periferico di Napoli. Il piccolo Fabrizio è un seggiolone fatto con legname di recupero, ha i piedini nudi e mangia con le mani degli spaghetti, non si sa perché, vuole fare una cosa spiritosa. È lì con il suo grembiulino a quadretti, con il suo bavaglino. Lo sfondo è una casa molto molto modesta, si vede, ma d'altronde era un basso napoletano, e sta lì Fabrizio. E queste due foto raccontano molto la loro vita, dello sforzo che hanno fatto per emanciparsi, per diventare qualcos'altro rispetto a quello che promettevano con le povere foto. Bianca, buongiorno. Buongiorno. Allora, io la mia prima fotografia è del 55. Ero all'asilo, io sono del 51, era una recita, ero vestita da angelo. Era un bellissimo angelo. Con le alucce dietro? Con le alucce, assolutamente, con le alucce. Certo. Avevo però una macchia sul viso perché me l'ho scottata, no? Mi ricordo che me l'ho scottata aiutando la nonna in cucina. Con l'acqua calda, l'acqua bollente? Con l'acqua, è bravissimo. Era il tipico incidente, c'era un compagnetto di classe che avevano faccia bruciata, che anche lui si era rovesciato l'acqua bollente addosso, succedeva molto spesso in quegli anni, perché i bambini stavano in cucina, non avevano la PlayStation, e giocavano con quello che capitava e tiravano giù l'acqua bollente in faccia, era facilissimo che succedesse. La cosa però... Ma è rimasta deturpata vita o poi è andata via la macchina? No, assolutamente. Non era ancora bollente, era caldina, ecco, diciamo. Era caldina. Ma la cosa buffa era stata, quella che io ricordo, è che la fotografia l'avevo vista poi in... credo nell'atrio dell'asilo, piuttosto che della... Era un asilo di suore, eh? Naturalmente, non c'era alternativa. Esatto. O forse nella bacheca della scuola, della chiesa, entrando in chiesa, e per cui mi ero vista pubblicata, e questa cosa mi aveva sconvolta. È come se l'avessero condivisa su Facebook, l'avevano messa all'entrata della chiesa perché era perché le piaceva l'idea dell'angioletto sfregiato, dava un senso di sofferenza, sì. E l'ho ancora, ovviamente poi sembrava quasi un angioletto nero, andava di moda Fausto Leali, sono un angelo nero, quindi va bene. Bianca, Bianca ha parlato, Anna Paola. Salve, buongiorno. Sì. Chiamo da Roma, la mia entrata in società, la mia foto è una foto che abbiamo fatto io, mia sorella e le mie cugine, fine anni... 60, 67, 68. Quanti anni avevate? Quanti anni avevate? Guardi, io avrei avuto 7-8 anni, mia sorella 4 e le mie cugine erano un pochino più grandi. Quindi prima dei 7 anni nessuno le scattò mai una foto? No, sì, sì, me le hanno scattate, ma non... Non se le ricordo. Sì, no, non me le ricordo. Io quella me la ricordo benissimo e la sto anche cercando da tempo, perché adesso sono morti i miei genitori e quindi quella io la cerco, perché mi ricordo mia madre orgogliosissima perché avevamo dei vestitini di velluto bellissimi, molto eleganti, e questa foto bella sotto un albero velluto statale. Velluto a coste, come andava di moda, velluto liscio, no, ah, liscio, quello cangiante, liscio, quell'effetto cangiante, bravo, verdi, blu, uno verde io e uno blu mia sorella, mi pare, come delle uova di Pasqua praticamente, bravo, a vedere, sì, con i fiocchetti, cioè, sai, quelle cose così, e sotto l'albero di Natale a Piazza Venezia, che all'epoca ancora a Roma gli alberi erano bellissimi, imponenti, e quindi era un'usanza che si c'era, le famiglie, si faceva la passeggiata durante il periodo natalizio e si facevano le foto lì, con le mie cugine molto imbronciate e invece io e mia sorella molto felici, ed è un ricordo che ho proprio molto molto, sia della città bellissima, pulita, e molto molto molto luminosa, ecco, che adesso non lo è, e questo è... Però vede quanto contesto c'è attorno a una foto, quanto sia possibile poi andare in profondità e ricordarsi quello che c'è attorno, i vestitini probabilmente fatti fare da una sarta di famiglia, immagino. No, quello non lo ricordo. Mi ricordo, sì, sicuramente, che però mia madre, insomma, fece un sacrificio per farceli mettere, al contrario degli zii che invece erano già molto benestanti e quindi per loro avevano anche il cappottino di velluto uguale sopra, per noi insomma, per la mia famiglia era insomma, mia madre mi raccontava poi negli anni che era, per noi era stato un po' più difficile, ma lei ci teneva molto. Ed era, cioè, lei voleva essere all'altezza dei figli degli zii ricchi. Ma voleva avere, sì, un ricordo, ecco. Eh sì, però voi eravate i parenti poveri, lei non voleva che si vedesse nella foto, quindi aveva messo... Forse anche per noi. Chissà quanti sacrifici per comprare quei vestitini di velluto. Però le posso dire una cosa, che io e mia sorella siamo riuscite meglio delle cugine. È sempre così, poi la vita naturalmente è giustiziera in questo. Quindi il cugino ricco con il cappotto spocchioso sarà finito, magari, che ne so, alcolista sotto un ponte, e voi vi siete fatte la vostra vita. Roberto. Sì, buongiorno. La sua prima foto. La mia prima foto è una foto, diciamo, di una gita in lungo il fiume Arno, in cui io sono ritratto accanto a una bicicletta stesa in terra e con un fiore in bocca. È una foto simbolica. E tengo il manubrio di questa bicicletta che probabilmente volevo cavalcare, non so. Ma era cascato dalla bicicletta o ancora troppo piccolo? No, ero piccolo e cercavo di adoperarla, di montarci, insomma. Ecco. Quindi un tentativo di montare in bicicletta. Il fiore in bocca, sì. Come mai? Quale simbologia pirandelliana c'era in questo fiore in bocca? C'era non lo so, diciamo che andando per il fiume a quell'età, io avevo circa 4-5 anni, era appena finita la guerra, nel 49-50. E quindi era un passatempo anche, diciamo, di cogliere qualcosa di bello, insomma. E chissà, forse volevano dire facciamo vedere questo bambino, che è un bambino con l'animo gentile, gli mettiamo il fiorellino in bocca. In questo momento, insomma, già da quel momento mi piaceva le cose che, diciamo, da cavalcare, le biciclette, le moto. E poi quando è cresciuto che ha cavalcato? Tantissime moto, tantissime. Va bene, Osvaldo cavalcatore, già nella prima. Roberto, scusate, cavalcatore. Osvaldo. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Osvaldo, sì. Pronto, mi sente? Benissimo, la sua prima foto. Grazie, guardi, io innanzitutto devo ringraziarla perché seguendo la trasmissione mi ha dato la possibilità di avere un flashback e di passare in rassegna quella foto che prima non avevo mai fatto, sinceramente. Ed è la foto del mio battesimo, del 57. Sì. Più o meno l'epoca è quella, noi siamo della stessa classe, più o meno. E il 57, la particolarità di questa foto, lei mi sa che una volta le foto erano proprio in bianco e nero, tutti zigrinati intorno ai bordi. Sì, certo, il bordino. Non ho mai capito perché la zigrinatura. Nemmeno io, sinceramente, forse era un abbellimento particolare, visto che le foto facevano un po'... Sì, sembrava un centrino fatto a mano, bellissimo. Una cosa... Ecco, la peculiarità di questa fotografia sta nel fatto che io ero praticamente nato da pochissimo, perché una volta i battesimi si facevano nel giro di pochi giorni, perché una volta, perlomeno nella Bergamasca, si usava battesimare i bambini nel giro di pochissimi giorni, perché dovevano essere in grazia di Dio, dicevano. E se no, se morivano andavano al limbo, bisognava battezzarli subito. Certo. Tra parentesi, io ero tutto battezzato. Una corsa a cercare un prete, se muore va in limbo, se non ammazzi. E un paio di settimane avrò avuto, ma la peculiarità di questa foto è che a me non mi si vede, perché hanno fatto una foto ingrandendo praticamente, prendendo tutto il parentado dietro e chiaramente allontanando praticamente quello che è il punto principale, che sono io, e mi si vede praticamente un cuscino pieno di tutti quei verdi, ecco. Bravissimo, a me non mi si vedeva. Allora, la prima foto sua in effetti bellissima, che è il contesto, è tutta background. Lei, che in realtà dovrebbe essere il punto della foto, non esiste. Potrebbe anche non esserci stato, forse lei non c'era, forse in quel momento gli stavano cambiando il pannolone e quindi dice, facciamo la foto lo stesso, pigliamo un pacco di tulle, tanto l'importante è si vedano le zie, i nonni, il prete, i parenti, e lei non c'era. Fermiamoci un istante. Milena, buongiorno. La prima foto. La racconto senza commenti, perché si spiega da sola. Una foto ben centrata, io neanche 2 anni, seduta sopra la capote della 500 del mio zio Scapolo. Cioè sulla capottina, quella che apparentemente poteva sprofondare da un momento all'altro. No, più che altro se mi fossi mossa sarei venuta giù dalla macchina, immagino. E quanto era piccola lei? Io con la manina, ma non avevo neanche 2 anni. Io con la manina che saluto, nei paraggi nessuno, a casa dei nonni, evidentemente nel cortile di casa dei nonni, questa 500 nuova di zecca, quindi immagino che fosse lei la protagonista, io ero di accessorio. E quindi ho sempre questa immagine, quasi mi fa tenerezza quella bambina lì sopra che ha rischiato. E lo zio chi era? Lo zio, il proprietario della 500? Il fratello di mia madre, e non ho fatto in tempo, perché quando la guardavo... Cos'era, uno zio Scapolo, uno zio un po' scapestrato? Sì, all'epoca lo era, prima che si sposasse era uno che si sapeva divertire, quindi aveva questa 500. Era il classico zio chiavatore, diciamolo, che c'è in tutte le famiglie. Vabbè. Sì, vabbè, mica. Non sono mai commentata su questo. Sì, non sì. Però guardi, scusi, uno che ha la 500 è così spregiudicato di usare in maniera infame la bambina per far tenerezza, per fare questa foto con la 500, con la quale poi avrebbe magari razzolato amiche di famiglia, altre signore del paese. Guarda bella la foto, che tenera la bambina, vuoi fare un giro? Questa è la tecnica degli ziacci, lo so. Ma mi stupisce che nessuno si sia indignato, neanch'io all'epoca, in fondo, all'epoca da adolescente, rivedendo quella foto. Oggi mi chiedo, ma com'è possibile mettere una bambina così piccola seduta su un'automobile, sopra la capotta, non dentro? Che poi, sopra, esattamente, guardi, io ho avuto la 500, la capottina della 500 era praticamente un piccolo telo abbastanza semplice, ogni tanto si logorava e si bucava e uno la chiudeva con lo scotch, quindi non era nemmeno una seduta tanto stabile, era piuttosto precaria, poteva sfondarsi per il peso di una bambina. Dico, era molto esile quella cappottina, infatti si rompeva sempre. Maurizio. Buongiorno Nicoletti. La sua prima foto. La mia prima foto è a casa di una zia, è esposta a casa di una zia, vestito da torero, avrò avuto qualcosa come 3 anni, con la parrucca bianca, il neo, questi colori seppia, perfetta, fatta da... Sì, il torero perché c'ha la parrucca bianca, non mi risulta. Che ne so, non lo so perché... Ha fatto un mix fra paggetto del 700 e torero, ha messo insieme assolutamente tutto. Assolutamente. È un bambino di 3 anni, io posso immaginare oggi dovrei andare allo psicologo dopo una foto. Ma cos'era, carnevale era? Che lei sì, penso di sì. Non me lo ricordo, era un bambino di 2-3 anni, mi hanno portato dal fotografo e mi hanno fatto questa foto. Ah, l'ha portata proprio in studio, l'ha portata per fare questa foto. Sicuramente, perché è una foto fatta da un fotografo. Lei ha la faccia tristissima, naturalmente. No, indifferente, dai. Cioè con la faccia bianca, con la parrucca bianca, il neo e sotto vestito da torero. E sopra questo cappello strano, sotto vestito di rosso, con questo mantello in mano. Ma forse era tipo un costume settecentesco, magari. No, era proprio da torero, perché quando con la muleta in mano mi dice, guarda la foto da torero, la vuoi portarla a casa? No, guarda, lascia qua. E loro andavano fieri di questa foto, le zie? Assolutamente, sì. Le ha provocato dei traumi, penso. Probabilmente mi hanno portato anche all'insaputa dei miei genitori. Hanno detto, dai, facciamo un regalone. E allora... Vedi, una costante era la sottile vena sadica degli zii e delle zie. Probabilmente erano gelosi del fratello che aveva avuto i figli. Allora erano o zitelle o zii trombatori, come nel caso della sua collega che l'ha preceduta. E quindi usavano come fosse materia a loro disposizione i nipotini e ne facevano ciò che volevano. Erano il loro balocco, li usavano per esprimere il loro disprezzo verso i bambini. Nel primo caso l'hanno messa in serio e precario equilibrio sul tettino della 500, nel suo caso l'hanno esposta alla vergogna e al ludibrio generale vestendola da piccolo torero. Donatella. Eccomi qua. Allora, la mia prima foto è stata fatta anche lì da mio zio, fratello di mia mamma. I miei sono emigrati in Brasile dopo la guerra, perciò sì. Io sono nata nel 48. La foto è fatta in Brasile? È fatta in Brasile, nella fazenda dove all'epoca vivevamo, dove io sono nata, in questo giardino molto lussurioso, perché nel senso di alberi... Lussureggiante, sarà lussurioso? Lussureggiante, era pieno di banane, com'è? Lo zio era lussurioso. Ah. Lussureggiante sì. Tutto quanto. Io in braccio a mia mamma, che ho 6 mesi, e mia mamma vestita con un paio di jeans, che ricordo ancora anche la marca, perché oggigiorno... Che marca era? Roy Rogers. C'erano solo quelli, Roy Rogers, me li ricordo. C'erano solo quelli. I miei primi jeans, erano bellissimi. Anche i miei, bellissimi. Se li va a comprare adesso sono 300 Ma esistono euro ancora? Esistono? Esistono ancora, sì. Allora c'erano solo quelli. Allora c'erano solo quelli. Lo sai che bello? Regalavano anche una sorta di patacca di latta che uno poteva attaccarsi, vero? Col bulloncino. Sì, noi ci giocavamo poi... Con la patacca di latta dei Roy Rogers. In Brasile facendo Mossigno e Bandido, perché era giocare a guardie e ladri. Mossigno e Bandido, bellissimo. Mossigno e Bandido, sì. Ecco, e quella era la foto che mio zio fece per poi mandare ai parenti in Italia la mia foto. È il procedimento inverso rispetto alla foto di Chiappini che hanno mandato in Paraguay ai parenti emigrati, la stessa cosa. Sì. Ma non usava in Brasile anche la foto del maschietto con l'evidenza virile per dire è nato il figlio maschio? No, poi mio fratello, quelle foto non sono mai... Vabbè, lei era femmina, che discorso. Ah, no, con suo fratello? Con mio fratello. Ma neanche... No, io ho una bellissima foto, sempre di mio zio, avevo 2 anni, in cui era andata in giardino col vasino a sì. fare la pipì sì. e lui mi ha preso proprio nel momento in cui io stavo per sedermi e mettermi il vasino. E girava in famiglia la foto di lei sul vasino? Sì, no, che girasse, no, però lui la fece sta foto. E che ne ha fatto poi? Se l'è tenuta? Ce l'ho ancora, sì, ce l'ho ancora. Beh, però vede, non c'era proprio rispetto per i bambini. Pensi quanta vergogna... Io ho una foto di mio figlio col pannolone aperto con tutto il contenuto, ogni tanto lo minaccio, la metto su Facebook e con quello l'ho praticamente nelle mie mani, parlo del grande naturalmente. Roy. Ciao Gianluca, buongiorno. Ah, Roy Rogers, vedi, si chiama Roy, ma Roy è vero il suo nome davvero? Sì, è proprio il mio nome, sì, me l'hanno messo da un film del 54, Il Ponte di Waterloo, era il generale Roy. Gianluca, la mia foto è Rimini, 1959, un caffè all'aperto di sera. Sono io tra i miei genitori. È una foto semplice, direi quasi banale, ma significativa dell'epoca. Mia mamma è vestita, ha i capelli corti, ossigenati, corti all'americana di allora probabilmente, camicetta colorata, anche se la foto è in bianco e nero a quadri. Mio padre ha la camicia bianca, con le maniche arrotolate, ma calzoni molto eleganti, sigarette in mano, aria sicura e ottimista. Insomma, questa foto per me rappresenta bene la fine degli anni 50, l'inizio del boom economico e la voglia di vivere. La camicia bianca era uscita alla messa, magari la mamma con i capelli all'americana, avevano la loro prima cucina e erano la felicità del fatto che avremmo avuto il PIL più svettante di tutta la storia dell'umanità del mondo moderno. Vabbè, abbiamo capito molto dalle vostre prime foto. Grazie, alla prossima.